Radio 24 presenta Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera. E allora benvenuti alla seconda puntata di Platone, la caverna dell'informazione. Per prima cosa vogliamo ringraziare le persone che ci hanno scritto al nostro indirizzo di posta platone@radio24.it, ma abbiamo anche un account Twitter che è Alessandro Milan. È Platone24. Oh, molto semplice. Buongiorno Alessandro. Questa è la seconda puntata di Platone in cui ci occupiamo di alcune delle notizie che hanno caratterizzato questo periodo e questa settimana, insomma. Quindi esattamente. Cercheremo di farlo anche stavolta a partire da che cosa, Alessandro Milan? Beh, secondo me la notizia della settimana in un certo qual modo è il fatto che la fidanzata di Silvio Berlusconi, che Francesca Pascale, ecco, vedo che sei molto preparato. Mi piace, sai che lei lavorava a Telecafone, faceva programma con i comici ai tempi. Con te anche? Io non c'ero, però altri comici avresti voluto, eh? Conosco un comico che ci ha provato con lei più volte. Ah. Non so come è andato a finire. Ma questa era la notizia più importante. Insomma. Non vorrei, come dire, poi avere delle querele, quindi evito di dire quello che mi è stato detto. Vabbè, ma querele. Ho già detto in pratica, senza detto, dire ho detto. Pratica, senza dire hai detto. Va bene. È andata bene. Ma non lo so. Vabbè, smentisce subito. Comunque, ma cosa ha fatto la Pascale? Francesca Pascale è andata in settimana a prendere. A te piace la Pascale come donna? Ma non è il mio tipo. Non è il tuo tipo. Non è il mio tipo. È andata a prendere la tessera dell'Arcigay a Napoli, nella sua città, e si è iscritta all'Arcigay. Ha detto: siamo un partito liberale, dobbiamo pensare anche alle unioni tra omosessuali, dobbiamo aprirci. Con lei sai chi è andato anche a prendere la tessera dell'Arcigay? Vittorio Feltri. Tu non lo sospetteresti mai, no, Vittorio? E infatti gli hanno fatto un'intervista a Repubblica e lui ha detto: ma sì, è una cosa leggera. Ma scusi, ma lei Feltri ha fatto sempre battute, sembra omofobo. No, io faccio battute su tutti, se ironizzi su tutti, tranne che sui gay, allora quello è razzismo. E comunque a me piacciono di più le lesbiche, se proprio volete sapere. Quindi c'è questa grande apertura verso i diritti civili, diciamo. Vedi che tutto si mischia a destra, a sinistra, non è più come prima. Quelli di destra infatti diventano un po' di sinistra, quelli di sinistra diventano un po' di destra. Una volta erano più chiare le cose, per dire, se compravi l'unità eri comunista, per dire, se andavi in chiesa eri democristiano. Esatto. Giusto. Adesso l'unità rischia di chiudere. O comunque quindi, se vai adesso in chiesa con l'unità sei del Partito Democratico. Più o meno, sì, che è la nuova democrazia cristiana. Tutte le cose si mischiano. Però abbiamo parlato di coppie gay, di, insomma, di nuove tendenze, e allora vogliamo sapere, abbiamo chiesto alle persone per strada cosa ne pensano delle unioni civili, dell'eventuale matrimonio tra omosessuali. Vediamo. Cosa pensa del matrimonio tra omosessuali? Proprio matrimonio ufficiale? Sì. Direi di sì, tanto sono assieme, conviene ufficializzare una situazione di fatto. E per l'adozione anche dei figli di due omosessuali? Quello un po' meno, perché vedrebbero una situazione un po' strana. Lei ha mai avuto tentazioni omosessuali? No. Esperienze? No. Lei è mai capitato? No. Una schifezza. Perché? Perché è una schifezza. Perché il sesso è fatto per la figa e per il pirla. Può essere un po' più esplicito? No, è più chiaro di così. Non so niente, sono per mura. Ma è favorevole o contrario? Sono per mura! Ma lei è favorevole o contrario? Contrario. Io contrario anche. Perché? La coppia è un maschio e una donna. La coppia è? Un maschio e una donna. Lei è eterosessuale? No, io sono giusta. Amo un uomo. Lei è? È etero. Giusta. È giusta. La coppia è un maschio e una donna. E allora queste erano alcune delle persone che ci hanno risposto, ma poi ce n'è stato un altro che abbiamo conservato a parte, che è stato, come dire, un po' più prolisso e anche un po' più, diciamo, ha espresso un'opinione anche diversa. Ascoltiamola. In poche parole, nel principio non era così. Ma uomo è uomo, ma dove siamo ridotti, dai? È una burocrazia, non va bene, uomini, donne, donne che adottano pure bambine. Ma dove siamo? In che futuro siamo? In che generazione siamo? Questa è una generazione malvagia, diabolica, satanica. Ma siamo scherzando? Noi umani stiamo rovinando l'umanità. Io non condivido questa cosa. L'uomo è l'uomo e la donna è la donna. Quindi due uomini o due donne insieme? Non va bene, escluso completamente. Questi sono negatività, spiriti che entrano nella psicologia e anche nella sessualità. Purtroppo questo, diciamo, l'umanità, uomini, diciamo, vogliono le cose, diciamo, che so, quello uomo e quello uomo, uomo e donna. No, non è così. sai cos'è il discorso? Il concetto è che in questo mondo non c'è timore di Dio. Lei è favorevole o contrario al matrimonio tra omosessuali? Ma per me facciano quello che vuoi, basta che non rompano le palle a me, basta che non mi rompano le palle. Lei è eterosessuale? Io ero eterosessuale, adesso non mi interessa più. Ma hai avuto qualche tentazione omosessuale? Io penso che ognuno di noi c'è sempre qualche tentazione di qualcosa. La coppia è un maschio e una donna. La coppia è un maschio e una donna. Chiarissimo. La coppia è un maschio e una donna. È dice. Un problema di burocrazia. Questi sono spiriti diabolici che entrano nella testa. Ma dove l'hai trovato? Entrano nella testa. Sono diaboliche queste cose. Alessandro Milan, e anche tu sei diabolico. Sono diabolico. Chi è condivide queste cose? Ma a settembre, se non sbaglio, poi ci sarà la legge, no? Sulle unioni civili. Sì, così si prospetta questa legge. È un gran dibattito parlamentare. Dovrebbe equiparare questa legge alle coppie sposate. Le coppie omosessuali con le coppie sposate, tranne per il diritto ad adottare bambini, questo non sarà quello escluso. Però per il resto anche le coppie omosessuali avranno più o meno gli stessi diritti. Gli stessi diritti e doveri. E doveri. Esatto. Tu sai com'è l'evoluzione della coppia eterosessuale normalmente? No, ma temo di scoprirlo tra poco. Allora, ci si dà il primo bacio, sì. Poi si comincia a fare sesso e non ci si bacia più. Poi si va a vivere insieme e non si fa più sesso, si guarda la TV. Quindi si può dire che darsi il primo bacio sia la fase propedeutica per pagare il canone. Ecco. Alessandro Milan, un uomo che ha dedicato la vita al sesso. Questa è la nostra cantante. Sicuro, sicuro. La voce che avete sentito è quella di Federica Vino, che poi riproporrà il gioco della settimana scorsa, che ha avuto grande, grande successo. Ma abbiamo un'altra notizia, Alessandro, che riguarda un parroco. Sì, ecco, sempre c'è stato in tema, tra un l'altro. Un parroco, si chiama Don Tarcisio Vicario, parroco di Cameri, quindi siamo in Piemonte, che di recente ha fatto un po' discutere perché sul foglio parrocchiale ha scritto alcune cose un pochino forti, diciamo, sulle coppie che convivono e non sono sposate. Ha detto praticamente: chi sta fuori dal matrimonio commette un'infedeltà continuativa, cioè ogni giorno appena ti svegli già sei nel peccato. È diabolico, è diabolico. Diabolico. Mica come, che ne so, chi commette un omicidio, che è un peccato così occasionale, no? Che tu lo fai una volta, basta. Insomma. Se me li nanno, lì c'è pensare. Esatto. E quindi grande scandalo, dice: ma come? Ha paragonato, anzi, ha detto che è peggio convivere che uccide. Poi ha chiesto scusa al vescovo, è intervenuto. E allora noi, per cavalcare l'onda, abbiamo qui, lo sentiremo tra poco, un vero sacerdote al quale chiederemo la sua opinione anche rispetto alle unioni omosessuali, ma ne parleremo tra poco. Sì, ancora! Hai problemi di stitichezza? Hai già provato tutti i rimedi, ma nessuno ti fa accomodare sulla tazza? Allora assaggia i biscotti di Nonno Piero. I biscotti in offerta 30x2 che ti ridaranno il piacere desiderato da tempo e che si abbinano a meraviglia non solo alla tazza del latte. Biscotti di Nonno Piero. Tutto il gusto della libertà intestinale. Platone, la caverna dell'informazione. Platone, la caverna dell'informazione. Stavamo parlando, Alessandro, di unioni civili, della legge che ci sarà a settembre appunto sulle unioni civili e del parroco di Cameri. Molto, molto illuminato questo parroco. Che ha stigmatizzato proprio le coppie omosessuali. Sì, ha detto è come l'omicidio, è peggio. È un moderato. È un moderato, sì. Però noi vogliamo capire se la base della Chiesa la pensa come questo parroco di Cameri oppure se segue un po' la via di Papa Francesco, che ha dato delle aperture in questo senso. Abbiamo qui invitato in studio proprio Don Danilo, che è il sacerdote di una piccola comunità. Buongiorno Don Danilo. Buongiorno, è davvero un piacere essere qua con voi a Radio 24 a Platone, ecco, questa bella trasmissione. Don Danilo, sentiamo la sua cadenza che è particolare. Lei è argentino, spagnolo? No, sono del Treviso, del Treviso originale. Del Treviso, solo che questo è un accento che ci hanno, diciamo così, imposto perché per essere più aperti alla gioia, a vedere le cose in una maniera nuova, diversa rispetto a prima, che eravamo un po' più fratelli, dobbiamo essere vincendo chiate. Invece adesso questa apertura bella che c'è, da parte di tutti noi. Tra l'altro, visto che domenica ci sarà la finale del mondiale tra Argentina e Germania, quindi un po' si è detto il derby anche fra papi in qualche e modo. E questa è una bella gioia, un'occasione per stare in pace, naturalmente, anche se adesso noi vogliamo bastonare questi tedeschi. Questa è una cosa, una volontà, una richiesta che è stata fatta anche, e noi ci mettiamo insieme a naturalmente questo, in senso sportivo. Noi però oggi vogliamo capire se lei, che rappresenta in questo momento qui con noi la base della Chiesa, condivide questa apertura di Papa Francesco verso i temi anche dell'omosessualità oppure no. Lei cosa ne pensa? E veda, naturalmente che le condivido, è importante per la Chiesa oggi avere uno sguardo più aperto sulla società, e gli omosessuali fanno parte della società. Certo. Perciò bisogna sì cercare di accettarli, anche se sono una parte minoritaria della società, una parte strana, una parte, mi lasci dire, un po' malata. Beh, sono malata, e quindi cercare di accettarli è il primo passo per farli guarire. Beh, insomma, grazie alla Chiesa, magari mettendoli tutti insieme per un po' di tempo a pregare in un convento isolato, lontani dalla comunità umana ma vicini a Dio, in modo che possano riflettere sui propri peccati e su questa difficile malattia. Insomma, non diciamo malattia, che è anche brutto dire mi ascolti, è un modo, me lo lasci dire, di lasciare libera la parte sana della società, quella degli uomini che si sposano con le donne e delle donne che si possono sposare con gli uomini per procreare, per fare figli, e non per accoppiarsi sessualmente come animali, senza nessuna finalità più alta, di una forma davvero malata. Perché se Dio avesse voluto che ci accoppiassimo senza procreare, beh, allora avrebbe fatto la donna senza utero, no? E invece le donne l'utero ce l'hanno, ecco, e gli omosessuali no. E allora preghiamo perché tutti gli omosessuali possano guarire, oppure preghiamo perché finalmente gli spunti l'utero. Questa è l'opinione sua, Don Danilo. È l'opinione mia, ma anche della base della Chiesa, che vuole essere forte come una roccia e rappresentare quello che è il pensiero di tutta la Chiesa, compreso il Papa. Vabbè, insomma, il Papa l'ha detto chiaramente, la pensa diversamente. Diciamo che questa è la sua opinione personale di una parte della Chiesa, forse un po', diciamo, reazionaria. Comunque la ringraziamo. L'importante è stare nella gioia. L'importante è stare nella gioia. Grazie, grazie Don Danilo. Ma grazie a voi, Alessandro. Come illuminato, ti sembrava? Come quello di Carmen, illuminato più o meno. questo, ma dove li trovi? Beh, ma li trovo io, ma poi li si trova anche nella realtà. Insomma, abbiamo visto. Giusto. Complimenti Don Danilo, veramente un bel peccato modello. Non sono riuscito a stringergli la mano, la parte malata della società. E allora cambiamo però argomento. Dopo aver sentito questa testimonianza, parliamo un po', si parla sempre, un argomento sempre attualità, Italia, la spesa pubblica, dove tagliare, cosa fare, insomma. Sì, esatto. Tu sai che cos'è, Leonardo, il SIOPE? No, non lo so, sembrerebbe una tribù di pelle rossa. No, no, non è una roba. I SIU e i SIOPE. I SIOPE. No, I SIU, tra l'altro, erano quelli che si salutavano sempre, sai. See you later. Ecco. Possiamo chiudere qui. Allora, il SIOPE in realtà è un acronimo. Uh-huh. Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Praticamente è una banca dati online che fino a questo momento era inaccessibile a tutti i cittadini. Era conosciuta solo dalla ragioneria dello Stato, nella quale tutte le amministrazioni mettono le spese. Centesimo per centesimo, no? E adesso questa banca online, banca dati è online, accessibile a tutti. Basta fare siope.it e ognuno può vedere quali sono le spese della pubblica amministrazione. Esatto, che è una cosa di trasparenza, mi sembra giusta. Per esempio, vuoi sapere qualche spesa? Sì. Sappi che spendiamo 1.600.000 euro all'anno per assistere psicologicamente e religiosamente i dipendenti pubblici. Io non ho capito bene cosa voglia dire. Beh, se hanno dei preti come Don Danilo, capisci, perché poi gli uffici pubblici. Qualche altra spesa? No, poi abbiamo speso 211 milioni di euro in traslochi e poi 43,9 milioni di euro in sei mesi di quest'anno in pulizia degli uffici pubblici. Perché dopo i traslochi bisogna pulire, esatto, resta sempre un po' di polvere. Esatto. Oppure, voi quest'ultima, l'anno scorso abbiamo speso in carta, cioè la carta, 1.670.000 euro. Per citare la tua rubrica, la carta la costa. La carta costa abbastanza. Ma noi invece vogliamo sentire anche il parere di qualche ascoltatore su queste spese della pubblica amministrazione. Vediamo se c'è qualcuno in linea. Pronto, pronto. Pronto, chi ha apparecchio? È ancora sta storia. Chi ha apparecchio? No, lei deve dire, ci ha chiamato lei chi ha l'apparecchio. Io sono Alessandro Milan. Alessandro Milan, sei quello che fa rassegna della mattina? Sì, sono quello della rassegna della mattina. Non ti ascolto mai, Milan. E allora come fa? Non mi piace, Milan. Va bene, cambi stazione. Non mi piace, la trovo incompleta. Incompleta. Un po' tutto fatto un altro, no? Che dice, prendi da una parte, dall'altra, poi... Non mi piace, Milan, non ti ascolto mai. Ho capito, non è obbligato ad ascoltarmi. Ma ho sentito delle spese, no? Che, sì. Hai capito quello che voglio dire? Sì, più o meno. Non sono d'accordo con le spese, perché in Italia paghi le tasse a cosa serve in Italia? Dimmi, Milan, a cosa serve le tasse? Non so, andare in ospedale. Serve a dare le case extracomunitarie, a dare le case ai negri. Ma no, ma i negri, neri. Personalmente contro i negri. Diamo anche le case ai negri, prima però devono diventare bianchi. Scusa, si devono adeguare al paese che li ospita, Milan. Anche sì. Perché io se vado a Africa col sole divento nero, l'africano viene qui con la nebbia, non diventa bianco, capisci, Milan? Guardi, lasci, a parte che si dice neri. Sei quello del radio che fa la segna. Sì, sì, non ti ascolto, Milan. Ho capito, ma forse è meglio, vabbè, no. Anche i cinesi, ormai i cinesi dappertutto, tra un po' te li trovi anche in chiesa di remessa, quando arriva la comunione ti dà ostia fritta, capisci, Milan? No, dai, su, addirittura. Mamma. Guarda, ti lascio con un'ultima cosa che è capitata veramente, a mio cognato, sì. Luciano, aveva un negozio di alimentari a Cavaillon Veronese, l'ha dovuto sì. chiudere, adesso il negozio l'ha preso un arabo, si chiama Alimentari, hai capito, Milan? Ho capito. Come cambia cose, Milan? Ti saluto e ricordati che non ti ascolto mai. Va bene, ciao, guardi, ma forse guardi, è un ascoltatore perso di cui non essere poco orgoglioso. Va bene, la ringrazio. Mamma mia, ragazzi, Leonardo. Hai visto, Alessandro era un po', come dire, un estremista, non, abbastanza. Non vedeva di buon occhio gli stranieri. No. Rispetto ai quali abbiamo invece anche una notizia sul giornale, vedo. Sì, sui il giornale qualche giorno fa ha titolato in prima pagina, il titolo principale, questo titolo: assalti Rom ai treni delle vacanze. Io ho detto, Un po' terroristica come notizia. Sì, emergenza sicurezza, cioè pare che nelle stazioni principali, Roma, Firenze, Milano, Bologna, ci siano questi Rom che assaltano i treni, che assaltano le valigie, le valigie. Altro, dei passeggeri, no? Durante il cambio scendi, sali dal treno, eccetera. E bisogna vedere cosa c'è nella valigia, perché non in tutte le valigie. Nella tua cosa c'è? Cose di biancheria intima? Sì, come nella tua. Cioè, vado in giro nudo. No, io metto anch'io i boxer. Io uso il tanga invece, ecco, mi piace. Infatti, lo sospettavo. Ma noi invece abbiamo un Rom che collabora con la nostra trasmissione. Come no? Che mandiamo in giro nei luoghi tipici dell'estate. Sì, oddio, l'ultima volta non è andata benissimo. Abbiamo dovuto pagare una cauzione, come dice lui, per poterlo liberare. Aveva avuto un problema col commissariato di Forte dei Marmi. Esatto. Vediamo dov'è questa volta e sei in linea. Pronto, Ratko? Oh, buongiorno, che bellezza sentire le vostre voci. Buongiorno, Ratko, buongiorno. Dove si trova di bello? Io mi trovo in uno dei posti più frequentati da italiani, ma più di Venezia, più di Riccione, più di Courmayeur. Oh, che bello, dove? All'IKEA. Ma dai, ma chi in una calda giornata di luglio non viene qua a vedere cameretta per bambini, nuovo armadio? Aspetta che prendo un po' che delle matettine che metto in tasca. No, non rubi le cose, ma che no, l'abbiamo dovuto liberare. Sono fatti apposta per prendere. Guarda, prova a guardare in scrivania di Milan. Ha così tante matettine di IKEA che se incolla tutte insieme ci fa un letto matrimoniale. Vabbè, lei pensi al suo lavoro, ecco. Quindi è andato all'IKEA perché... certo. Veramente sono 5 giorni che mi sono chiuso qua dentro IKEA. 5 giorni a fare cosa? Perché? Ma perché... Sai cosa ho capito? Che tu quando vieni a IKEA vedi uno bello mobile che ti piace, poi compri, porta a casa e una volta montato fa schifo. Perché qua la location a IKEA è diversa da tua casa. Le luci sono più accese, spazi più grandi, c'è musica diffusa, tutto è più bello. Ma allora Ratko ha detto, ma perché devo portare i mobili in mia trista casa? Vengo io a abitare a IKEA. È una soluzione alternativa. Come si trova lì, Ratko? Sono felice, ma felice... Come uno testimone di Geova davanti a citofono con 300 nomi. Boh, sto benissimo qua. È bello, cambio stanza ogni volta, arredamento. Ogni giorno, capatoi e asciugamani sempre puliti, nuovi. Tutto è bello. C'è una cosa che non va benissimo, Cos'è? Servizi, bagni, non funzionano bene, dai. Ogni volta che fai le tue cose, tiri sciacquone e rimane tutto là, fa uno schifo. Sì, ma dai, per forza, perché sono bagni che non hanno gli scarichi veri, non hanno le tubature. Adesso ho capito, ma sì, adesso fammi vedere quante... Ne rimangono ancora una trentina. per 15 giorni sono a posto, poi quando sono tutti pieni cambi Ikea, magari vado a quella delle Carugate. Non c'è bisogno di specificare, ma senti, invece il ristorante dell'Ikea l'ha provato? Sì, e questo com'è? Altro tasto dolente, ma ne era, posso dire con sincerezza? Sì. Se uno ti dice che a Ikea ha mangiato bene, c'è solo una spiegazione, è un tarlo. Perché così? Perché non si mangia bene qua? Quando trovi animali come mangi in ristorante, che trovi gallina, porco, vitello, no! Che cosa si trova? Cosa c'è? Trovi polpette di rena, involtini di alce, spezzatino di daino, ma più che ristorante, ti sembra stare al zoo di Stoccolma. E io ho capito perché. Perché? Sai perché succede questo? Mm? Perché a loro dei Ikea interessa pelle di animale per coprire divani, poi con quello che ci avanza fanno polpettine. Ma no, ma non è così, non dica questa cosa. Cosa ha mangiato in questi giorni? Io sono 5 giorni che mi nutro del salmone, manera. Salmone colazione, pranzo e cena. Se faccio tufo in Adriatico, ma riscalisco un po' fino a Pavia. Certo. Va bene, Ratko. Noi la ringraziamo e chiudiamo qui il nostro primo collega. Capire, Leonardo, ma chi è che ha pagato questa cauzia? Perché chi ha pagato cauzia? Sento voce di Milan. Sì. Tu Milan hai pagato a cauzia. Come tu? Io no, io non ho pagato niente. Ma sì, dai, con tua carta di credito. No, come mia carta di credito? Forse clonata. No, è il suo clonato. Ha parlato lui, non è uno familiare. Ha pagato lui, ho il numero di sua carta di credito. Ma come numero di io non l'ho pagato niente. È il tributo che bisogna pagare alla trasmissione. È il rom che assaltano i treni. Allora diciamo una cosa, io questi che nel secondo ho sentito là noi andiamo a rubare, allora dico che rom che rubano sono quelli che si sono integrati meglio in Italia. Non è che siamo formigoschi. Va bene, grazie Ratko, noi invece ci sentiamo fra 2 minuti. Donna, in quei giorni particolari del mese ti piacerebbe andare in moto? Andare a cavallo? Andare in discoteca? Cimentarti in incontri di lotta greco-romana? Ebbene, tutto questo con gli assorbenti Bellugi diventa un sogno. Assorbenti Bellugi, permeabili, evidenti, ingombranti. Assorbenti Bellugi, l'ideale per essere costretta a casa e dedicarti a te stessa. Platone, la caverna dell'informazione. Abbiamo parlato col nostro inviato Rom Ratko, ma prima invece ci stavamo occupando di siope. Vogliamo ripetere che cosa significa siope? Sistema, vabbè, ho sbuffato perché ho detto adesso non ce l'ho sotto mano, non me lo ricordo più. Non sei un giornalista, non sei un giornalista attendibile. Ma non sono un giornalista. Non sei, tu cur, allora, così. Sistema. Ma se ti ha risposto anche Renzi a un tuo tweet. È vero. Poi, è vero. Insomma, lo sapete, ma qui Alessandro Milan è uno che fa i tweet e gli risponde Renzi in persona. Capito, mica cazzi. Sei stato citato dalle principali testate nazionali. Addirittura. Ti ha gratificato questo umano? Moltissimo. Ti ha dato un assegno, un aumento, ecco, qui a Regno 24? Questo no, però non ho dormito 2 giorni per l'emozione. E caspita, questa. Ma sei soddisfatto della tua paga qui a Radio 24? Moltissimo, moltissimo, anzi minchino. Aspetta che la voce va via, minchino. A chi? Al direttore? Il direttore del personale, il direttore, il vice direttore, tutti. Va bene, quindi insomma sei soddisfatto economicamente, sei gratificato al tuo lavoro, ti risponde Renzi, cosa puoi chiedere di più alla vita? Qualche notizia sul SIOPE. Esatto, esatto. Allora il SIOPE, beh, avevi chiesto, è il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Però questa cosa è bella, alla fine c'è un po' di trasparenza, qualcosa di tutte le promesse che ha fatto Renzi, insomma poco alla volta si stanno avverando. Sei un po' polemico. No, io assolutamente no. Sei un po' polemico. No, dopo tutte queste diapositive c'è anche qualche cosa. Tutti parlano del SIOPE e ne parlano anche i protagonisti della nostra rubrica, il carrello dei bolliti. Il carrello dei bolliti. Io non capisco stamattina questo ritardo, ma quando minchia passa la suora? Quando c'ero io le colazioni arrivavano sempre in orario. Ma, è colpa del SIOPE, il sistema operativo degli enti pubblici non è più un mistero. Hanno scoperto quanto abbiamo speso e ci hanno tagliati. Ma. Lo avevo detto che andava tutto in fumo. Colpa della partitocrazia, caro Romano. Colpa del PC, P2, P38, l'Attavi, il MUS, il MOS. Allora, che andava tutto in fumo l'abbiamo capito perché dal SIOPE risultano spese hashish pari a 25.000 euro, caro Marco. E tu, Romano, Considerando che siamo in un regime di ristrettezze e che i grassi saturi fanno male, allora risulta che hai speso 35.000 euro di mortadella. Sì, ma io i grassi saturi però li smaltisco andando in bicicletta. Appunto, dal SIOP risultano spese per 2.500 euro in copertoni. È una vergogna! Quando c'erano le case di tolleranza, nessuno bruciava i copertoni! Ignazio, c'è neanche per te, allora! La devi smettere con questa ossessione di voler invadere la Polonia con il girello! Il girello è della struttura ospedaliera ed ha un costo! Lasciate fare me, faccio una telefonata a Milanese e vedrete che qualche soldo per una colazione completa lui lo trova. Altro che la nostra suora. Questa era la nostra rubrica, il carrello dei bolliti. Hai visto, anche loro parlano di spese, che poi insomma sono è l'argomento principale anche in tutte le famiglie, no? La spesa per che cosa, qual è la spesa principale per esempio nella tua famiglia? Ma insomma, per il cibo forse, no? Poi avendo due bambini, anche il vestiario, giochi il regalino in edicola. Perché le cartolerie, le edicole sono una vera calamita per mi i bambini. Mi hanno aperto un negozio sotto casa di regali per bambini. Volevo andare lì a incendiarlo di notte. Io ho visto anche con mio figlio, è una vera calamita, qualsiasi cosa, perché anche le cartolerie, le edicole, tengono le macchinine. Certo, tutte quelle cineserie, quelle robe luminose. Le buste, hai visto le buste dei Puffi, le buste di Peppa Pig? Sono delle buste di cartone grandi, che tu paghi non tantissimo, 4-5 euro, però dentro non c'è quasi nulla. 4-5 euro una busta? No, ma è una busta, è un sacchettone, diciamo, non una busta, è un sacchettone. E dentro però non c'è quasi nulla, quindi il bambino ha grandi aspettative, poi apre il sacchetto e rimane deluso. Questo lo condiziona anche nella vita futura. Infatti lo dovrà riempire di regali. Resta traumatizzato per sempre. Perché li vedi i bambini a testa bassa. È una metafora della vita questa cosa, perché tu ti trovi un sacchettone, che sarebbe la vita, dal quale ti aspetti grandi cose, niente. Poi lo apri e dentro a volte non c'è quasi nulla, il bambino si intristisce, si amareggia e resta traumatizzato per sempre. Per sempre. Comincia a bere, a drogarsi, sicuro. E la sua vita precipita in un tunnel così. Senza prima fondo. Dallo spinello alla cocaina, adesso dalla busta di Peppa Pig Ma se invece questa busta costa più di 30 euro, come bisogna pagarla, Alessandro Milan? Ovvio, con la carta di credito. Tu sai che adesso c'è questa nuova legge, che poi non è propriamente una legge, per cui le spese sopra i 30 euro non si potranno più pagare in contanti. No, è peggio che è propriamente una legge, ma è un po' fatta all'italiana. Sì, ma una legge deve prevedere la sanzione, invece esatto, questa legge la sanzione esatto, non la prevede. Esatto, bravo. Se tu vai da un professionista e fai una spesa di 30 euro, puoi pagare con il POS. POS. POS. Cioè con la carta di credito, banco. Che è un po' il rumore che fa mentre lo passi. POS. Come mentre fa? Della clona. Come fa? POS. Comunque, c'è i professionisti però non sono obbligati ad avere il POS, ma se non lo mettono non incorrono in sanzioni. E quindi non è una legge, perché la legge, io lo dico da ex studente di giurisprudenza, una legge deve prevedere una sanzione se non viene ottemperata, altrimenti è una legge tronca a cui nessuno dà retta, insomma, perché gli manca proprio la parte importante, una delle parti fondamentali. E infatti Repubblica scriveva questa settimana: i POS non decollano, cioè nessuno forza. Lo mette, non è nessuno. Perché poi bisogna pagare le commissioni alla banca, chiaro, eccetera. Costano. Ma il problema di fondo qual è alla fine di tutto? Che bisogna cercare di evitare l'evasione, perché il nostro Stato ha sempre bisogno di soldi. Esatto. Ha bisogno di tagliare la spesa pubblica. E allora noi, anche per capire come si può tagliare la spesa pubblica, abbiamo qui un ospite in esclusiva, perché sappiamo che tutti lo cercano, ma nessuno lo trova mai, questo ospite. Sì, è vero. Io lo cerco per la mia trasmissione del mattino, non viene mai. E noi ma invece qui, a Platone, lo abbiamo trovato, ed è il commissario della Spending Review, il dottor Cottarelli. Buongiorno, mi accomodo qui. Buongiorno, sì, Cottarelli, buongiorno. Grazie innanzitutto di essere con noi, perché sappiamo che lei è molto ricercato, ma insomma partecipa di rado alle trasmissioni. Beh, è un'occasione per incontrarmi anche con Milan, visto? Buongiorno. Grazie. Si parla di spesa pubblica, di tagli alla spesa pubblica da anni, ma insomma alla fine con pochissimi risultati. Secondo lei da dove si può cominciare per tagliare la spesa pubblica? Si potrebbe cominciare parlando di meno, è già un taglio che si farebbe alle parole. Meno parole, più fatti. Bene, insomma, è un modo ironico di cominciare, però da questo si può capire che lei è molto risoluto. Guardi, per quanto riguarda lo Stato, sono molte le cose che si possono tagliare. Ecco, ci faccio qualche esempio. Molte auto blu sono già state messe all'asta, ora abbiamo pensato di venderne altre e di ricorrere solo alla Clio. Sì, quindi al posto delle auto blu, che di solito sono macchine più costose, ricorrere solo a utilitarie. No, se c'è qualcuno che ha bisogno, telefona al Quirinale e si farà un passaggio da Clio Napolitano a moglie del presidente. Esattamente, che tanto sta lì tutto il giorno ad annoiarsi, magari dare un passaggio a qualcuno gli fa anche piacere. Allora, questa, lei è capitato, sì, ha già avuto qualche esperienza in questo senso, insomma, sì, è capitato con Clio. Sì, naturalmente. Lei mi diceva che lei stesso ha avuto un passaggio da Clio Napolitano. Sì, sono stato accompagnato anche da lei per in alcune commissioni che ho fatto. Anche al supermercato. E mi consiglia come fare la spesa a lei, a me. Ringraziamo la moglie del presidente che si presta a questa operazione di spending review, diciamo, pubblicamente. Ma a suo parere potrebbe dirci quale potrebbe essere il provvedimento, diciamo, più significativo? Tagliare il debito pubblico grazie a un'azione di intelligence. E questo è uno scoop di cui la ringraziamo. In cosa consiste questa azione? Beh, si sa che gli anziani sono tra i principali detentori di titoli di Stato e che spesso conservano i certificati in casa perché non si fidano delle banche. E qui subentra la nostra azione di intelligence. E cioè, in che modo? Appena sapremo che un anziano sta per passare a miglior vita o appena è passato a miglior vita, manderemo le nostre teste di cuoio a fare irruzione nella sua casa, trovare i certificati dei titoli di Stato, impossessarcene e consegnarli così personalmente a me. E lei provvederà a bruciarli uno per uno e disperdere poi le ceneri nel vento, eventualmente anche insieme all'anziano. A quella dell'anziano. Sì, sì, e tutto questo in nome del popolo italiano. Sì, e del supremo interesse che abbiamo per questa spending review. Bene, noi ringraziamo il dottor Cottarelli per essere stato con noi e per queste notizie che ci ha dato. Come l'hai trovato, Alessandro? Beh, capisco perché da mesi non risponde agli inviti di 24 Mattino. Ma interessante comunque le ricette che ha dato. Un po' risoluto, insomma. Abbastanza risoluto. Io a questo punto bisogna sapere che fine ha fatto Ratko, che si trova all'IKEA. Ratko, ci sente? Pronto, Manera. Sì. Scusa, ho abbassato suoneria perché sono qua a IKEA, sto assistendo a funerale. E come un funerale all'IKEA? Ma sì, adesso c'è un momento più solenne di funzione. Stanno smontando Salma con chiave brugola da 10 e pezzi del cadavere ripongono in Klugut, che è uno contenitore di plastica riciclata da quanto viene 8,92 euro, che è ideale per vetro, carta, metale, ma vedo anche ottimo per defunti. Sì, ne stavamo parlando con Cottarelli prima, ma dove viene tumulata la Salma nel negozio? Ma no, non c'è nessuna tumulazione, sai, azienda di IKEA è nota per rispetto che loro hanno di ambiente. E in questo caso, defunto non viene sotterrato, ma riciclato. È venduto come gioco per ragazzi da 10-14 anni. Se vuoi cercare in catalogo, si chiama Gysur, rimonta tuo scheletro, bellissimo. Sì, senta, ma com'è che celebrano un funerale all'IKEA? Perché? Ma perché qua si fa, ma che funerale? Si fanno matrimoni, battesimi, funerale, c'è consiglio comunale, pompieri, farmacia, canile, tutto quello che vuoi. Hanno loro moneta, fiorini che hanno. IKEA è come uno piccolo stato, come San Marino. E infatti qua battono moneta e anche battono due ragazze minigonna, ecco, che mi hanno detto di salutare tantissimo Alessandro Milan. Certo, sappiamo che è un frequentatore del genere. Ma no, comunque le saluti, grazie. Ecco, sì, magari anche di persona con il nome. Io, Ratko, trovo interessante questo fatto di riciclare tutto, insomma, di non, anche i defunti. Ma tutto riciclano, perché IKEA riciclo è molto importante, loro ci tengono a questo. Tu quando muori in azienda, no, hai due possibilità, come da noi che o te fai cremare, per esempio, o te vedo sottoterra, qua invece hai due possibilità, o diventi gioco per ragazzi o finisci ristorante sotto forma di polpettine. No. Ma sì, tanto che cazzo sa che gusto a carne di alce dai in Orena, dai! E adesso quasi quasi io ti saluterei perché sai uno languorino, ora de brunch. Sì, oggi mi andrò a prendere anche oggi uno bello salmone per sicurezza. Chiamo Mensola, dai, andiamo. Chi è Mensola? È mio cane. Mm? Eh sì, scusa, se IKEA hanno chiamato Mobile Billy, vuoi che io non posso chiamare mio cane Mensola? Ciao amici. Buongiorno Ratko, grazie Ratko. Dai, ciao. Dai. Allora, noi prima di proseguire vogliamo riproporvi il gioco della settimana scorsa con la nostra cantante Federica Vino. Straordinario. A cui hanno risposto, ha avuto un successone, hanno risposto in molti e noi vogliamo anche dire chi ha vinto. Si chiama Andrea Goffi di Paderno Dugnano, al quale manderemo una confezione di spaghetti. Allora, in cosa consiste il gioco? Noi mandiamo una canzone cantata a cappella da Federica Vino e voi dovete indovinare in questa canzone qual è la parola sbagliata, quella diversa dal testo originale. Vediamo se ce l'abbiamo anche questa settimana. Orzata per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti in latteria. Allora, qui le parole sbagliate sono attenzione, ben due, infatti, e bisogna trovarle, non è semplicissimo. Potete rispondere a platone@radio24.it o anche su Twitter. Platone24, ci potete seguire. La faccenda si complica con due parole, però. Leonardo. Con due parole si complica e voi intanto cominciate a pensarci. Io una l'ho azzeccata, una subito. Pensateci. Leonardo Manera, un grande creativo. Peccato che gli manchi tutto il resto. Donna, hai una pelle a buccia d'arancia ormai sfiancata dalla cellulite più devastante? Allora sappi che ormai non c'è più niente da fare. Sappi che il passato non ritorna, che le cosce tornite di un tempo sono solo un lontano ricordo. E consolati col semifreddo rusticone. Semifreddo rusticone, il semifreddo a base di rume maraschino, che non combatte la cellulite, ma che almeno per un po' te la fa dimenticare. Semifreddo rusticone, il semifreddo da gustare quando ormai per le tue cosce non c'è più niente da fare. Niente. Platone, la caverna dell'informazione. Insomma, hai visto Alessandro, alla fine i temi sono sempre quelli: i tagli, la spesa pubblica, il lavoro. Proprio è stato rimandato il Jobs Act, Job Act. La riforma del lavoro. La sì, riforma del lavoro. Jobs Act. Che è Jobs o Jobs? Jobs. Ah. No, Jobs. No, quella con l'apostrofo? No, è tutto attaccato, è un acronimo che hanno rubato a Obama. È una riforma, adesso non chiedermi in inglese. Te la chiedo. No, dimmi esattamente dai, in cosa basta parole, combinate qualcosa. Ecco. Siete come tutti gli uomini che parlano e poi non concludono niente. Questo è vero. È vero, un po' è così. Jobs Act è un acronimo, poi adesso me lo studio e te lo vado a ritrovare. L'hanno preso dalla riforma del lavoro di Obama. Ah. Però è slittato. Quindi quando si farà? E che ne so, se slitta, per il momento slitta. Slitta, questo è quello che puoi Doveva dire. Doveva essere già fatto. Non so, sono un indovino, no? Slitta. Ma slittano tutte le cose. Siamo qui. Siamo campioni del mondo di slittino. Oh, grande battuta di Alessandro Mila. Me la tiverai tirata proprio fuori. La giornata decolla dopo questa battuta della slitta, dello slittino. Siamo campioni slittino. Però l'importante è che ognuno si inventi dei lavori, intanto che la riforma slitta, ognuno trova il modo per vivere, sopravvivere, guadagnare qualche soldo per mangiare. E noi, per capire che lavori oggi le persone si inventano, siamo andati fuori da un cinema e abbiamo incontrato questa persona molto creativa. Sì, in pratica io vengo qui fuori dalla sala il pomeriggio e poi anche la sera e chiedo alle persone di farsi raccontare il film da me per risparmiare qualcosina. Quindi praticamente le persone evitano di spendere i soldi del biglietto del film, e però risparmiano, ma sanno ugualmente di cosa si tratta. Sì, in pratica poi io li coinvolgo anche se c'è necessità e me lo chiedono. Comunque, non so, se c'è ad esempio il rumore di una mitragliatrice, faccio la mitragliatrice. Se c'è un bacio, li bacio. Insomma, cerco di dare il più possibile un impatto emotivo forte. Le persone come reagiscono a questa iniziativa? Ma direi bene, perché hanno poi la sera libera per fare dell'altro, pur sapendo di cosa parla il film. Certo, perché la narrazione del film dura poco e hanno ancora un'ora e mezza a disposizione per sfruttare altrimenti in altro modo la serata. Quindi mi sembra un'iniziativa lodevole, interessante. Sì, vedo che c'è un buon riscontro, la cosa sta prendendo piede e per adesso, insomma, me la cavicchio, funziona bene. Tutto questo per? Beh, dai 2 ai 3 euro a seconda dell'effetto che vuole la gente. E allora, dopo questa persona che si è inventata questo lavoro particolare, insomma, parlare di cinema è un genio. In qualche modo è affine alla televisione il cinema. Perché sto andando su questo argomento? Ahi, già lo temo. No, abbiamo il professore. No, andiamo su questo argomento per parlare di una cosa di cui si è parlato molto anche in televisione. Ah. La processione di Oppido Mamertino. Sì, quella è una cosa molto delicata. Oppido Mamertino ha fatto questa processione religiosa, mm-hmm. e come purtroppo è tradizione da 30 anni, a un crocicchio di una strada i portatori della statua della Madonna hanno fatto quello che si chiama in gergo un inchino, cioè si sono fermati nella via dove abita un boss che è agli arresti domiciliari e sta lì a Oppido. E di questo si è parlato molto sui mass media, tantissimo, in televisione, e noi abbiamo la fortuna di avere qui al telefono un abitante del luogo di Oppido Mamertina che ci dirà veramente cos'è successo durante la processione. Pronto? Buongiorno. Sì, ma certo che me lo dirò, ecco. Per filo e per segno lo dirò, perché è ora di dire basta a questo omertà, a questo silenzio che ha messo in ginocchio un'intera nazione. E basta. Questo è bello, finalmente qualcuno che ha coraggio. Da vendere, Manera, da vendere ne ho di coraggio, sentiamo. Oh, è bello, quindi lei non ha timore di Giuseppe Mazzagatti, il boss dell''Ndrangheta? Come boss dell''Ndrangheta? Sì, condannato per omicidio. Omicidio? Cioè, ci figuri se io temo un condannato? Anche perché, essendo condannato, cioè, significa che sta in galera. Sì, però in questo momento agli arresti domiciliari, in realtà. Come domiciliari? Sì. Manera, possiamo abbassare il tono della voce, ma solo per una questione di intimità, capisci? Non è che... Senta, non ci ha ancora detto come si chiama lei. Ecco, se si può, preferirei rimanere anonimato. Per la sua incolumità, no, è comprensibile. No, incolumità, ci mancherebbe se antepongo la mia sicurezza di fronte ad una denuncia sociale. E che, se poniamo caso che io mi chiamassi Ciappacani, capisce? Signor Ciappacani, che cosa mi dice di Mazzagatti? Sembrerebbe una barzelletta, Cioè, lo dico per voi che siete una radio seria, no? Sì, comunque lei non ha l'accento calabrese. No, mi sono trasferito. Io sarei di... Ecco, se posso non dirlo. No, vabbè, è comprensibile perché essendoci di mezzo l''Ndrangheta ha paura di ritorsioni, teme ritorsioni. Basta, queste paure, basta con queste ritorsioni, non è... È che non è una questione di ritorsioni, ma poniamo il caso che io non so, sia di Vicenza, non vorrei si pensasse ad una complicità col boss. In che senso? Beh, sa come si dice, vicentini magnagatti, se lui li mazza e io li mangio, sembra che siamo in società. Per cui, guardi, facciamo così, diciamo che vengo da Brescia e mi chiamo Evaristo Beccalossi. Ecco. Allora, signor Beccalossi, visto, diciamo, Beccalossi, quanto è successo durante la processione, il vescovo della diocesi di Palmi, Monsignor Francesco Milito, l'ha visto tu? Milito? Ma no, sono l'unico che dà il nome falso perché se la fa addosso. Eh sì, Milito. Adesso oltre a vescovo Milito magari ci sarà anche il sindaco Zanetti e il commissario Ibrahimovic. E io cretino dovrei parlare, ma fatemi il piacere, ma arrangiatevi. Va bene, ci aspettavamo una testimonianza un po' più pregnante. Un po' più coraggiosa, ecco. Un po' più coraggiosa. Abbiamo ancora qui con noi Don Danilo. Don Danilo, cosa ne pensa di quello che è successo durante questa processione? Ma io dico soltanto che bisogna accettare queste offerte fatte con la salute dei fedeli. È stato, io credo, un inchino al mal di schiena. Casso ha voluto che quando si sono fermati c'era la casa di questo boss. Insomma, tutto si poteva risolvere con del Voltaren e si evitava tutta questa polemica. Se uno ha il mal di schiena e si deve fermare, poverino, che cosa ci può fare? Quindi secondo lei la statua pesava troppo, è pesava stato un troppo. Problema di mal di schiena. Bisogna accettarlo, questa pausa, un momento di rilassamento ci vuole. La Madonna lo accetta e vogliamo che non lo accettino anche gli altri. E va bene, Don Danilo, questa è la sua opinione, grazie. Ma Alessandro, Milan, insomma, la televisione porta sempre le persone sui luoghi dove accadono le cose. Come no. E noi abbiamo al telefono... Ah, un graditissimo ritorno, il professor Limoncelli, professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, critico storico della televisione, professor Limoncelli, d'estate gli italiani vanno in vacanza, ma molti non rinunciano a guardare la TV, Naturalmente, perché la televisione, con tutti i suoi difetti, mi lasci dire, estrinseca il bisogno soggettivo degli utenti secondo un modulo di interdipendenza orizzontale, potenziando e incrementando nel contesto di un sistema integrato la superfetazione dei pensieri in atto. Sì, come al solito, ecco, non è che ho capito tantissimo cosa significa. Ma lei non capisce perché non significa assolutamente nulla, ma mi piace del sfoggio della mia cultura, mettere insieme parole totalmente prive di significato. Ho detto una montagna di stronzate. Ma mi piace dirle, mi piace che voi stiate ad ascoltarle pendendo dalle mie labbra. Superfitazione, apocatastasi, chiasmo, sesquipedale, parole che messe insieme non vogliono dire assolutamente nulla, ma io le cito, le dico per dare sfoggio alla mia cultura. Sono critico e storico della televisione. Non ignorante come lei. No, grazie. No, beh, moderi un po' i termini. Comunque, vabbè, lei è critico e storico. Sono giornalista veramente. Sono giornalista. Ma non ci posso credere. Mi dico, facciamo questa intervista spiacevole, facciamola. Io invece non ho tempo con lei, ho una vita assolutamente discutibile. Va bene, posso farlo. Ho dedicato peraltro la vita al sesso, una cosa veramente che non mi aspettavo queste cose Radio 24. Allora mi faccio la domanda. Allora, gliela posso fare? Naturalmente. Grazie. Va bene, allora noi come sa, chiasmo, sesquipedale, superfetazione. Cosa voglio dire? Nulla. Mi faccio la domanda. Va bene, allora noi come sa, professore, noi come sa le telefoniamo ogni settimana per chiedere cosa vale la pena vedere o non vedere in TV. Ad esempio, tra i programmi storici della TV, quale bisogna evitare? Bisogna assolutamente evitare Report, un programma assolutamente inutile. È inutile rinunciare truffe, comportamenti truffaldini, quando poi è evidente che solo una minima parte di quelle truffe avrà un seguito giudiziario. Report è un inno all'impotenza. Si fa il sangue amaro, ma nella maggior parte dei casi è assolutamente inutile. Ma a meno che come Gabanelli, argomento, a meno che non si occupi delle tasse sulle squillo. Argomento assolutamente interessante, non tanto per le tasse quanto per le squillo. Perché anche se si parla di tasse, vedere la coscia di qualche smandrappata di fatto e maggiorata fa sempre piacere, molto piacere. Una bella smandrappata col seno di fatto, che al posto del seno non ha un seno normale, ha due bombe, una bella bombardiera che io potrei portare volentieri sulla mia porta aerei. Poi si può parlare di tasse, di politica, di vacanze. L'importante è che è vedere le cosce di qualche smandrappata. C'è un po' l'ossessione, professore storico, critico televisivo, ma un po' l'ossessione. Vabbè, senta, invece qual è un programma che vale la pena guardare? Ma vale assolutamente la pena di guardare i film in onda sulla piccola emittente del digitale, Telestraporca 2000, ripeto, Telestraporca 2000, una piccola TV che manda in onda di notte senza interruzione film assolutamente educativi, per esempio Tre uomini con tre gambe, oppure Storie di casalinghe, Idraulici e sifoni, oppure A qualcuna piace nero, quello che ho visto io la notte scorsa. Già questi titoli mi basterebbero e avanzerebbero, però quale sarebbe questo film? Educativo, del titolo Abbiamo fatto 30, facciamo 31. È la storia di una serissima studentessa universitaria che per superare tutti gli esami va a letto con tutti i professori in tutte le posizioni del Kama Sutra. E prende sempre 30? Naturalmente no, prende 18. 30 sono le misure intime dei professori con cui va a letto, tranne uno appunto che invece di 30 fa 31. È un film assolutamente educativo. Educativissimo. E perché sarebbe educativo? Perché mostra il malcostume delle nostre studentesse che invece di laurearsi, grazie allo studio, cercano questi sotto il fuggio. È così educativo che io l'ho registrato, gli ho dato un'occhiatina anche stamattina. Giusto per... Facciamo 31. Vabbè, professore, guardi, grazie anche per questa settimana. Tutto. Alla prossima. Grazie a voi, ricordate, dov'è il canone? Telestraporca 2000. Arrivederci. Mica. Arrivederci. Guardi Telestraporca. Va bene, lo farò. 2000. Sopra, sotto, in tutte le posizioni. E allora abbiamo terminato anche questa puntata col professor Limoncelli, Alessandro. Accidenti, certo che... Vabbè, ricordiamo... No comment, però ricordiamo che ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica platone@radio24.it, sul nostro account Twitter che è @platone24. Io voglio anche ringraziare Gisella Turio che mi ha scritto, io avevo chiesto donne anziane la settimana scorsa, mi ha detto 62 anni, sono troppo giovane. No, però devi invecchiare male. Ecco, perfetto. E voglio ringraziare anche il nostro tecnico in regia Fabio Cantadori e tutti voi che ci ascoltate. Spero ci ascolterete anche la settimana prossima, puntuali sabato alle 9, più o meno. Radio 24 vi ha presentato Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera, con Alessandro Milan, Luca Clovas e Danilo Vizzini.